Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 36 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 21 giugno dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino. E oggi sono qua a raccontarvi di un momento ludico, di un momento di festa, di un momento di svago che ho passato, sì, il mio vagabondare, che è solitamente il vagabondare del pensiero e il vagabondare delle idee, di quello che succede intorno, però a volte è anche il vagabondare fisico. E come era già successo per gli interventi dedicati a Roma, oggi mi trovo a parlarvi di una città che ho visitato recentemente, che effettivamente mi ha molto ben impressionato, mi ha molto colpito nella maniera più positiva del termine. E questa città è, nello specifico, Palermo. Beh sì, mi sono concesso un fine settimana nella terra siciliana per eccellenza, nella capitale regionale di quest'isola meravigliosa che è appunto la Sicilia. Beh, allora partiamo da un concetto molto interessante, secondo me. Alla fine, quando vai nei posti, cosa fai di solito? I più vanno a vedere musei, vanno a vedere chiese, vanno a vedere mostre, magari se poi il periodo estivo e quindi magari uno passeggia un po' meglio e quindi può andare a vedere parchi, giardini e quant'altro. Una città chiaramente offre magari lo zoo, chiaramente anche io l'ho fatto per tanti viaggi, andavo nelle città e andavo a vedere lo zoo, quantomeno da fuori, se proprio non da dentro. Però al di là del discorso etico di uno zoo, però era una cosa che secondo me lo zoo parlava in qualche modo della città in cui eri. E Palermo, ritorniamo su Palermo. A Palermo non sono stato allo zoo, non so nemmeno se c'è in realtà, però a Palermo mi sono subito reso conto di alcune cose che mi hanno subito ben impressionato. E vale a dire che Palermo, oltre ad essere una città stupenda, favolosa, nel senso è ricca di storia, si passa per stili, per epoche e per contaminazioni di persone che probabilmente l'hanno vissuta in maniera molto netta, molto nitida, quindi ci sono molti riferimenti nordafricani, perché chiaramente la zona di mondo è comunque molto vicina al Nord Africa con il Sud Italia, ma ci trovi dentro molti richiami anche magari a una cultura più nordica, del Nord Europa. E chiaramente sì, ci sono stati per molti anni anche popolazioni del Nord Europa dentro la Sicilia, quindi questo si ritrova, si rivede, e è molto bello vedere anche proprio la varietà fisica delle persone. Vale a dire, ti puoi imbattere tranquillamente in persone alte e bionde, come in persone magari di altezza media, more, scure di carnagione, quindi c'è una contaminazione incredibile. E nonostante questo, una cosa che a me, ecco, partendo proprio da questo punto di vista, mi ha colpito tantissimo è stato appunto che, nonostante tutte queste contaminazioni che nella storia la città e l'isola in generale, la Sicilia, hanno avuto, nonostante questo, nonostante che comunque Palermo è una città abbastanza grande, non è certo una città piccola, però nel vivere quotidiano delle persone questo non si riconosce. Perché una cosa che io ho, secondo me, valutato è che Palermo sia proprio una città vera. Cioè, questo è l'aggettivo che secondo me più si adatta alla definizione di questo splendido posto, vale a dire vera, nel senso è vissuta appieno dai palermitani. E anche i turisti che ci sono, che comunque sono abbastanza, si immergono in qualche modo, vengono in qualche modo contaminati da questo vivere reale la città da parte dei suoi abitanti. E questa secondo me è una cosa molto bella, molto importante, vale a dire il camminare per le strade, per i vicoli, entrare nei bar, nei ristoranti, nei mercati. Favoloso il mercato della Vucciria, è bellissimo, è un'esperienza da fare. Ho visto scene incredibili, veramente molto bello, molto bello. Cioè, e la prima cosa che ti viene in mente, almeno che a me mi è venuta in mente, è stato proprio questo senso di appartenenza, di attaccamento, di voler bene al posto dove si sta. Cosa che magari, se va ormai io ho un po' girato un po' nelle zone più vicine a me e un po' anche fuori, boh, io potrei dire, che ne so, di Roma, come vi avevo già parlato in una puntata precedente, potrei dire di Firenze, potrei dire di Milano. Queste, secondo me, a differenza di Palermo, non sono ormai più vere, nel senso, quando sono stato a Roma, anche nel quartiere più popolare che ho visitato, anche nel posto che in teoria avrebbe dovuto incarnare la romanità più forte, c'era, ma sembrava finta, sembrava una cosa costruita ad arte proprio per i turisti come me in quel momento, che passando di lì, chiaramente Roma quotidianamente tutto l'anno avrà migliaia e migliaia di turisti, costruita ad arte per farti credere che sia così. Però ecco, non ho respirato ad esempio a Roma quell'aria di verità. E lo stesso mi succede a Firenze. Quando mi capita di andare a Firenze, sì, godo delle bellezze della città, come ho goduto della bellezza, della magnificenza di Roma, che in effetti la grande bellezza è vero, insomma, ecco, come avevo già detto. E anche a Firenze succede questo, si gode di questa bellezza, però anche a Firenze ormai non si gode più della fiorentinità, non si respira più, secondo me, la fiorentinità. Quello che invece a Palermo ho visto, mi è sembrato proprio di toccarlo con mano, ad esempio entrare nel quartiere Ballarò, che è un quartiere popolare, un quartiere tra l'altro molto bello, con degli scorci, degli angoli di visuali allucinanti da come sono belli, e lì vedere che le persone non sono lì ad aspettare il turista, non sono lì a cercare di acchiappare la persona di passaggio per tirargli la fregatura, per costringerlo, magari invogliarlo a vendergli qualcosa, a fargli comprare delle cose, no, cioè sono lì a fare la sua vita. Se poi arriva il turista, che chiaramente da turista va nel bar, consuma una birra, che ne so, boh, va al mercato e compra un souvenir e tutto quanto, sì, c'è, sono pronti a questo, però non sono lì per quello, loro sono lì a fare la propria vita, conducono la propria esistenza, poi arrivi tu, contamini un attimo quello che è il loro mondo. E tra l'altro mi è anche capitato un signore anziano passeggiando per il mercato, che, immaginatevi la scena, una stradina stretta, banchi di cose a vendere a destra e a sinistra e tantissima gente nel mezzo del mercato, perché poi ve lo dirò dopo un'altra cosa che ho notato molto bella del sud Italia, in questo caso di Palermo. Comunque finisco questo aneddoto, e questo signore voleva attraversare con il motorino il mercato sostanzialmente, e praticamente era arrabbiatissimo con gli avventori del mercato perché lui con il motorino non riusciva a passare, e alla fine delle fiere lui, insomma, è riuscito a passare, però maledicendo i turisti. E vabbè, evidentemente il signore non aveva troppo piacere che ci fossero così tante persone nel mezzo, perché lui aveva da passare col motorino, sì o sì, ecco. Però un'altra cosa molto bella, vi dicevo, del mercato, l'aria che si respira al mercato. Il mercato, come io l'ho sempre teorizzato da bambino, ma non l'avevo mai visto nemmeno nel mio paese, dove il mercato comunque è una cosa molto forte, è un agorà alla fine anche il mercato, anche dalle mie parti, però visto, vissuto il mercato che io mi ero sempre immaginato visto nei film, quindi con le persone, che i venditori, che sono dei banditori sostanzialmente, che urlano, espongono le proprie merci e proprio le cantano e invogliano le persone. Però non è una cosa per turisti, è proprio, fanno così in generale, fanno così per i palermitani, perché una cosa che io ho notato è che c'è una praticamente totale assenza. Ora il 100% non esiste, l'assoluto non c'è, però quindi chiaramente ci sarà da qualche parte, io non l'ho visto, però immaginatevi, sono stato in lungo e in largo a piedi dentro il centro storico di Palermo e anche un po' fuori, quindi sono bei chilometri ogni giorno, avrò camminato tanto, insomma, sì, ho camminato tantissimo, in 3 giorni avrò fatto 30 chilometri minimo, di media 10 chilometri al giorno li ho fatti, non ho visto un supermercato. Cioè, ci sono le botteghe, ci sono le panetterie, ci sono le friggitorie, ci sono i fruttivendoli e c'è il mercato, e la gente va al mercato. Tra l'altro, un'altra cosa che io ho notato, dico, vabbè, forse io abito in una zona di mondo che è in Italia, è fra le più care che ci sono, perché in effetti qua la vita non costa poco, ma com'è possibile che lì costi 300-400% di meno? com'è possibile? Le tasse sostanzialmente tutti le paghiamo, alla stessa misura intendo. Le spese varie che un'attività, che avere in piedi un'attività porta, insomma, quelle chiaramente ce le avranno anche lì. Eppure lì le cose costano effettivamente un sacco di soldi di meno. Quindi io ci sono rimasto un po' basito, perché non so bene se la cosa che non quadra è lì costi tutto così poco o è qui che costa praticamente tutto così tanto. In ogni caso, un altro aspetto molto bello della città e delle persone, soprattutto degli abitanti di Palermo, la solarità. Effettivamente questa cosa a me l'avevano raccontata, io avevo conosciuto persone originarie della Sicilia, però l'avevo conosciuta qua in continente, come si dice quando non si parla di isola, riferito ad un'isola, però in effetti me l'ha sempre stata detta questa cosa, che i siciliani hanno un'apertura straordinaria verso le persone, sono molto cordiali, sono molto accoglienti, sono molto caldi, sono molto passionali, e effettivamente è verissimo. Al di là dei, diciamo, i bottegai che chiaramente di lavoro e sono lì che aspettano clienti, quindi quando sei un suo cliente chiaramente ti trattano con i guanti, ma quello più o meno lo fanno un po' dappertutto, a parte in Maremma dove sembra che tu gli faccia un dispetto ad andare nei posti, però a parte lì poi è normale, è uso comune che un cliente venga trattato in maniera più che buona. Però lì proprio le persone ti vedevano in giro per la strada, chiaramente noi eravamo un gruppo di ragazzi, di persone, insomma ragazzi, ormai diversamente ragazzi, mi viene sempre di dire ragazzi, però chiaramente non lo siamo più, insomma eravamo un gruppo di persone, chiaramente non eravamo del luogo, chiaramente eravamo di fuori, insomma venivamo da fuori, però ecco, siamo stati accolti e aiutati proprio anche nelle scelte dalle persone. Che ne so, ci siamo fermati di fronte ad un incrocio, come si vede quando si va un po' fuori, no? Si va magari in Germania, si va magari in Inghilterra, una cosa, un luogo comune che spesso viene detto, che quando vai all'estero ti aiutano nelle scelte da a te che sei di fuori, mentre quando vieni in Italia no, tutti se ne sbattono e ti lasciano in mezzo ad un incrocio a non sapere dove andare. E questo però a Palermo ci è successo, cioè eravamo là, sì, ma si è avvicinato un signore anziano, ma dove dovete andare? E la persona che viene lì e ti chiede di dove sei, che bisogni hai, e ti aiuta e ti instrada e ti dice sì, ma guarda, vai lì piuttosto che di là, ad esempio ci hanno consigliato di andare al giardino botanico perché la zona dice è molto bella, il giardino è bello, e in effetti era molto bello. Poi una giornata molto calda anche in relazione al periodo in cui ci sono stato, e il giardino botanico chiaramente offre delle ombre, offre dei rinfreschi come si suol dire, e tra l'altro ci avevano consigliato anche per dire per mangiare, perché lì si mangiava molto bene, insomma in effetti è vero. E un'altra cosa molto carina è che tipo noi siamo arrivati in mattinata, il primo giorno a metà pomeriggio sembrava che tutti già sapessero, dovunque andavamo tutti già sapessero che lì in quel momento c'era un gruppo di toscani che sarebbe stato lì per pochi giorni e che sarebbero stati in giro, perché ci è capitato di entrare in un posto e appena ci ha visto un signore, ma era veramente il primo o secondo posto in cui eravamo entrati a Palermo, ci ha detto ah, ma voi siete quei toscani che sono qua per il matrimonio. E in effetti era vero, però insomma si torna lì, Palermo è una città tanto grande, non è che è una strada in cui se uno entra in una strada gli abitanti della strada lo sanno. Eravamo proprio da un'altra parte rispetto all'unico posto dove eravamo e al posto dove eravamo a dormire, quindi mistero della fede, come si suol dire. Come avranno fatto a saperlo, non lo so. Bene, cari amici, questo piccolo digressione su Palermo, mi auguro che vi abbia fatto nascere la voglia di andare, perché veramente lo merita. E siamo arrivati anche oggi all'appuntamento della leggerezza, all'appuntamento con il Cafone Vagabondo, un piccolo viaggio itinerante ogni puntata fra vizi e virtù che abbiamo, e io stesso ho, anzi io sono il primo Cafone Vagabondo, e che vi racconto il più delle volte i miei vizi e le mie virtù, virtù poche, vizi molti, però ridiamoci su, prendiamoci un po' la leggera e mettiamoci un po' l'occhio, perché forse questa cosa ci fa un po' bene. Il Cafone Vagabondo di oggi, che è il Cafone Vagabondo di oggi, rimaniamo in ambiente canino come quello della settimana scorsa. Però la settimana scorsa il Cafone Vagabondo era il non padrone del cane, ma stavolta è il padrone del cane, è quello che il suo cane è il centro del mondo, cioè non esiste cosa più bella nel mondo, non c'è più bella e più affettuosa del suo cane, che sarà pure vero, però quando mi trovi smetti di lanciarmelo addosso e di parlargli come se fosse un essere umano, perché alla fine il cane non lo è un essere umano, sì, capisce, ti segue, ti vuole bene e tutto quanto, ma non è un essere umano, quindi, oh, hai visto, c'è il tuo amico magari, no, ti fa, c'è il tuo amico, guarda, e poi te lo lancia addosso, autoconvincendosi, cercando di convincerti che l'abbia fatto di sua volontà, in realtà al cane non gli importa proprio niente se lì c'è quella persona piuttosto che l'altra, sei solo te, padrone cafone, che hai bisogno di tanta considerazione. Bene, cari amici, l'appuntamento è finita qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiremo la settimana prossima, come sempre, sulle frequenze di Radio Big World, e nel frattempo siate saggi!